si te parla non risponda, stai distratto con me e te tengo in tuo cuore. Songo sempre innamorata, ma tu invece ben sarata e te stai scordando me. Sì, tieni la mente, non salta fa morire il cuore amante. Tu maricista sì, nascere magia e morti è la coraggia, ma maricista sì, nascere magia e morti è la curata.